qua. Vai. Ancora bro, rimasti giù, in uno stato di schiavitù. 8 ore, 4 spicci, dici come la chiami tu. Tutti col sogno di Malibu, alti tu, tanti tu. Fuori dalla merda, bere l'erba che ti fa di più. Sanno che quando le scrivo le incastro, che quando rimo ti uccido ti ammazzo. Sanno che arrivo dal basso, ora mi stanno vicino ogni passo. Gli altri mi dicono fra ce l'hai fatta, nessuno sa quanto è lunga la tratta. La strada non è piatta, adesso non conta più quella già fatta. Tappa dopo tappa, stappa, vodka tipo fosse acqua. Anche se con le tasse magra, ancora la gola setata. Join per la prima fila transennata. Fumo bianco come se mi nominaste papa. Questa qua è la nostra storia. Fuga verso la vittoria. Questa qua è la nostra storia. Impara la memoria che fa. Uno per i soldi, due per la vodka, tre per la gente come me che sbloca. Quattro per la sfida, cinque per l'invidia, sei perché sta merda è la mia vita. Uno per i soldi, due per la vodka, tre per la gente come me che sbloca. Quattro per la sfida, cinque per l'invidia, sei perché sta merda è la mia vita. Frate ti casca la testa se fotti con me. Dai. Con quello che predico pochi rimangono in piedi. Con le gambe loro frate gli altri chiamano il medico. La bocca spara la traccia è una rascia roulette. Porta l'anestetico che ti separo la faccia dal resto del corpo. Come salgo sul palcoscenico frate. Fantasma dell'opera vieni a rubare a casa dei Doberman. La tua collana non vale una strofa mia che il confronto è la catena di Andromeda. Dammi un milione che spendo un milione fra. Cosa desideri più di quest'onestà? Vuoi un altro falso che parla della gente ma non gli frega un cazzo di come sta. Un cazzo di come sta. Mammi sa che sei come la si ha. Parli dei miei soldi ma nessuno poi li dà a me. Giro con gente con 10 euro in tasca, mica la Mastercard che pensa che l'ultima canna d'erba vale più di chi li carcerà. Questa qua è la nostra storia. Fuga verso la vittoria. Questa qua è la nostra storia. Impara la memoria che fa. Uno per i soldi, due per la vodka, tre per la gente come me che sbloca. Quattro per la sfida, cinque per l'invidia, sei perché sta merda è la mia vita. Uno per i soldi, due per la vodka, tre per la gente come me che sbloca. Quattro per la sfida, cinque per l'invidia, sei perché sta merda è la mia vita.